Salva Danaio di Deborah Rosciani. Una buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, un ben ritrovati a Salva Danaio. Ricominciamo insieme una nuova settimana e allora ci siamo. Le scuole hanno riaperto i battenti lo faranno per tutta la settimana a macchia di leopardo. Oggi si inizia in molte città e poi appunto nel corso della settimana tutte le regioni appunto completeranno il quadro. Con il Radio Day di Radio 24 stiamo esplorando un po' tutti gli aspetti legati alla molto polemica riapertura di questo anno scolastico. Noi di Salva Danaio, io come vi avevo promesso lunedì della scorsa settimana, ritorniamo sulla riapertura della scuola per capire come affronteranno quest'anno le famiglie italiane questo anno per l'appunto e quali indicazioni si possono dare per cercare di mantenere una vigilanza, un controllo anche sulle numerose voci di spesa che riguardano la vita dei figli a scuola. Dopo aver dedicato tutta la puntata di lunedì ai libri, oggi esploriamo tutto il resto: corredo scolastico, gite di istruzioni, la mensa, le ripetizioni, come ci si organizza. Noi sentiremo qualche interlocutore questa mattina che potrà sicuramente dare alle famiglie che ci ascoltano, alle mamme e ai papà, qualche suggerimento per affrontare più o meno serenamente i prossimi impegni economici legati alla scuola dei figli. Stamattina con noi Gianni Nicolì, responsabile nazionale Ufficio Scuola e Università dell'AGE, l'Associazione Italiana Genitori, che ormai chiamiamo sempre per affrontare questi temi. Nicolì, buongiorno. Tra l'altro mi ha messo in difficoltà con questo accento sulla I finale. Chiedevo alla mia assistente: ma come si pronuncia, che non me lo ricordo, Nicolì o Nicoli? Nicolì, e quindi abbiamo accontentato insomma la pronuncia. Sì. Buongiorno, grazie per essere tornati con noi. Sì, buongiorno, buon anno scolastico. Soprattutto, esatto, molto incandescente stamattina in molte città italiane perché sta proseguendo questa protesta di molti lavoratori precari. Anche lì, tra l'altro, si parla anche di mamme e papà, probabilmente, che non solo affrontano, come dire, il problema della riapertura della scuola e delle spese che devono sostenere per i figli, ma magari lo devono affrontare avendo perso anche contestualmente il posto di lavoro. Saluto e ringrazio Lucia Moreschi, responsabile del Dipartimento Junior del Movimento Difesa del Cittadino della Lombardia. Moreschi, buongiorno. Buongiorno, grazie a voi. E tra un po' ci collegheremo con Ugo Margini, presidente della Federcartolai, Federazione Nazionale Cartolai, che avevamo avuto, ma solo per pochissimi istanti, e anche un collegamento venuto male, lunedì scorso, per cui anche tutte le spese che devono essere sostenute in questo ambito, l'Associazione dei Cartolai Italiani appunto si attrezza per venire incontro alle esigenze delle famiglie e ci faremo raccontare le iniziative che l'organizzazione ha messo in campo quest'anno. Allora, per vivacizzare la nostra trasmissione, sapete bene che a noi piace sentire i vostri contributi e quindi chiamateci all'800 24 00 24 oppure scriveteci al 349 238 6666. La borsa questa mattina, vi abbiamo già, scusate la difficoltà a parlare, ma il mio naso mi ha abbandonato completamente quest'oggi, colpa dell'ambrosia su Milano. Dicevo, la borsa, vi abbiamo già anticipato quello che sta accadendo sul mercato questa mattina nel corso del giornale radio. Gli accordi di Basilea 3 del fine settimana stanno spingendo le borse e tutti i titoli del settore bancario, perché i nuovi requisiti sulla vigilanza bancaria sembrano meno stringenti e quindi preoccupano un po' meno le banche rispetto a quanto non si indicasse prima dell'evento appunto di Basilea. Abbiamo un rialzo dell'1,14% di Parigi, Francoforte più 0,9%, Londra in rialzo dell'1,07%, Milano più 1,10%, e naturalmente sono tutti i titoli bancari grandi protagonisti di questa seduta milanese. Banco Popolare più 3,41%, Popolare di Milano più 3%, Unicredit più 2,86%, Monte dei Paschi più 2,67%, Intesa San Paolo più 2,26%, recupera anche Azimut, che è un titolo che la settimana scorsa ha perso molto terreno, oggi appunto recupera quasi 2 punti, Ubibanca più 1,93, Mediobanca più 1,83, e poi cominciano anche altri titoli di altri settori: STM più 1,54, Generali, quindi bene anche il settore assicurativo, più 1,52%, Buzzi più 1,33. Il segno meno lo abbiamo su Snam meno 0,8, su Telecom meno 0,5, perde mezzo punto anche Campari, che è stato grande protagonista in positivo delle ultime due sedute della settimana scorsa. E di questa euforia sul mercato Oggi ne approfitta anche l'euro di questa euforia sul mercato europeo. L'euro è oltre la soglia di 1,28 sul dollaro e ha recuperato abbondantemente anche la quota, la quota 107 sullo yen giapponese. Direi che possiamo lasciare il mercato azionario per andare invece a parlare del tema di questa mattina di Salvadanaio. Riparliamo anche noi della ripresa dell'anno scolastico, focalizzandoci su tutte quelle che presumibilmente saranno le spese che quest'anno le famiglie dovranno sostenere per la scuola per i propri figli, non limitandoci solo al tema libri di testo che abbiamo già ampiamente affrontato lunedì scorso, ma andando ad analizzare tutte le altre voci di spesa. Quanto si spenderà? Speriamo poco, almeno per quelle, per le ripetizioni, se i ragazzi ne avranno bisogno, le mense, l'alimentazione, la gita scolastica e tutto quello che insomma attiene all'organizzazione della vita a scuola dei ragazzi. Sentiamo un po' questa mattina il nostro Marco Cosenza, si è appostato appositamente per Salvadanaio davanti al liceo scientifico Vittorio Veneto di Milano e ha domandato a genitori e anche agli studenti quali sono le previsioni di spesa che dovranno sostenere e quali sono anche le eventuali strategie adottate per risparmiare. Sentiamo un po' questo piccolo monitoraggio. Quanto spende in media una famiglia per i libri? Credo sui 350, 400. Si aggirerà intorno ai 300 euro. Che insomma mi sembra parecchio, però bisogna vedere, probabilmente poi alcuni testi sono riutilizzabili negli anni successivi, ma insomma comunque è una spesa non da poco. Sui 300 euro, 300, 350, prendendo qualche libro usato. Troppo, era giusto quello delle medie dove c'era il contributo del comune, perché così almeno per tutti, non tutta la cifra, però una parte la copriva e quindi era già più accessibile, anche perché tutti gli anni si cambia, tutti gli anni ci sono delle spese aggiuntive e per le famiglie è dura. Si comprano nuovi o si può adottare qualche soluzione per risparmiare? Ma se il libro è tenuto in buon stato si può anche pensare di acquistarlo sull'usato, direi proprio di sì, qualcosa sui 30-40% si può pensare di risparmiare. Penso che si guarderà anche al mercatino dell'usato e sicuramente, visto che mi pare almeno abbiano avuto l'accortezza di mantenere molti testi invariati da un anno all'altro. E allora avete sentito le domande di Marco Cosenza e le risposte dei genitori focalizzate particolarmente sulla spesa più importante per la ripresa dell'anno scolastico, che è quella naturalmente dei libri di testo. Tra l'altro volevo subito sentire il rappresentante dell'Associazione Italiana Genitori, Gianni Nicolì. Cominciando questa settimana noi immaginavamo che le famiglie fossero già a posto con l'acquisto dei libri di testo. In realtà forse non tutte le famiglie sono ancora a conoscenza della lista definitiva dei libri che, soprattutto per chi inizia una scuola nuova, appunto devono essere adottati. Quindi c'è ancora una situazione di grande provvisorietà, Nicolì. Sì, soprattutto per le secondarie, perché da quest'anno entra in vigore il riordino dei cicli scolastici, dei licei, degli istituti tecnici, degli istituti professionali, e avendo modificato i curricoli e le relative discipline, anche l'acquisto del libro di testo, considerando che anche gli insegnanti lavorano in modalità nuova, comporta molti assestamenti. Però credo che anche voi in trasmissioni precedenti l'avete detto, esistono delle modalità assolutamente legali e accettate anche dal Ministero e dalle associazioni degli editori, alternative. Per esempio, da alcuni anni per legge esiste il libro online, che sono dei libri che si scaricano da internet al costo di 9,90 euro, alcune editrici li danno. E chiaramente comportano l'uso di un piccolo computer o di un iPad per leggere, e quindi il costo va integrato con il lettore, con il sistema per leggere. O per esempio ci sono una rete di scuole del Sud Italia, dato vita al cosiddetto book in progress, gli insegnanti, essendo laureati e abilitati, possono scrivere libri di testo. Questi, invece di essere pubblicati da editrici, vengono forniti con sistemi informatici alla rete di scuole, e quindi un insegnante, non so, di lettere di un istituto tecnico un po' più abile, magari uno con altri colleghi, elabora un testo e lo cede in forma gratuita ad altri alla rete e così via. Infatti, quindi, facendo spendere per esempio la famiglia qualcosa come tra i 5 e i 10 euro al libro, che insomma potete immaginare quanta differenza ci sia rispetto ad un libro. Sì, guardi, in quel caso lì c'è il pro e il contro del cosiddetto libro online, che è diverso da questo book in progress di cui sto parlando, nel senso che, dicevo, bisogna prevedere anche il costo aggiuntivo comunque di un portatile o di un lettore addirittura. Sì, però diciamo che magari il portatile è abbastanza frequente, che oggi come oggi un ragazzo in casa ce l'abbia, anche in sì, età. Però per esempio gli ebook che sono i portatili dedicati a questa lettura hanno uno schermo similcarta che cerca di evitare, sa, la lettura da schermo comporta dei danni anche alla vista nel tempo, però ci sono dei pro e dei contro. Per esempio anche lo zainetto si alleggerisce, quindi chiaramente ogni innovazione ha aspetti interessanti. Infatti, certo, dei vantaggi e degli aspetti naturalmente non completamente positivi. Guardi, la rimando alla discussione su Book in Progress, magari alla seconda parte della trasmissione. Vorrei poi coinvolgere anche Lucia Moreschi, perché per le iniziative Lombardia le ha seguite direttamente, ma siccome Ugo Margini di Federcartolai deve lasciarci al termine di questa prima parte della trasmissione, le chiedo solo rapidamente, Nicolì, l'attrezzatura scolastica, diario scolastico, tutto l'equipaggiamento e tutta la problematica legata ai brand e alle mode. In sostanza, quest'anno secondo lei le famiglie riusciranno a scamparla e a non sottostare quei piccoli ricattini dei bambini che vogliono naturalmente, come dire, tutto assolutamente griffato? Le rispondo in maniera diretta, con tre criteri molto semplici e delle esperienze. Uno, quando i genitori si mettono insieme risparmiano. E allora le cito per esempio l'esperienza di Fasano in Puglia o l'esperienza di Ome a Brescia o addirittura delle 30 associazioni bresciane che si sono messe in consorzio e hanno fatto una convenzione con un unico grossista cartolaio, e in quel modo hanno comunque un abbattimento significativo dei costi sia sui libri che sulla cancelleria. Secondo, l'obiettivo è appunto quello che diceva lei, quello di non fermarci in, se mi permette, in frivolezze, in cose inutili, tra l'altro molto costose, ma di offrire un prodotto di qualità, quindi rieducare anche l'offerta oltre la domanda, nel senso che il cartolaio si chiede qual è lo zainetto anche più adatto alla schiena piuttosto che quello griffato e di moda. Lei tenga presente che uno zainetto scolastico mediamente costa molto di più di uno zaino tecnico per trekking, questo dimostra che è molto più qualificato e quindi anche molto più costoso da produrre ed è meno ergonomico per la schiena, questo dimostra che quindi le mode sono in questo caso nefaste. I genitori accorti sanno organizzarsi, per esempio noi come Agi abbiamo anche realizzato un diario che ha specularmente potuto essere venduto a circa 10 euro, però ha per esempio anche la versione online, quindi i ragazzi possono scaricare e stampare gratuitamente ogni accessorio per farsi nella loro stanzetta anche una serie di cartelloni. Infatti c'è una collega che mi ha raccontato addirittura che la scuola dove ha iniziato quest'anno appunto la sua bambina in prima elementare ha fatto costruire ai propri bambini addirittura il diario che li accompagnerà per tutto l'anno. Ugo Margini, io vengo appunto all'Associazione dei Cartolai Italiani, è chiaro che voi preferite vendere magari lo zaino del mondo di Patti, di Dragon Ball, che costano credo qualcosa intorno ai 30 euro. Detto questo però siete anche ben consapevoli delle difficoltà in cui molte famiglie viaggiano e anche quest'anno avete predisposto il cosiddetto scuola kit. Allora, per tutte le scuole di ogni ordine e grado, quanto costano, cosa c'è dentro, insomma siamo sicuri della qualità di questi prodotti? Sì, guardi, sulla qualità possiamo stare tranquilli, i zainetti preparati, cosiddetto scuola kit, sono di tre classi, per le prime e le seconde elementari, terza, quarta e quinta e una per le medie. Io vi posso dare al volo un esempio di cosa ci può essere in uno zainetto per la prima e seconda elementare: ci sono 5 copertine, un raccoglitore, righello, forbici, cartella con elastico, album da disegno, scatola di pennarelli, astuccio con dentro 4 biro, 2 matite, la gomma, il temperino, 12 colori, 12 pastelli, 10 quadernoni, un evidenziatore, 2 colla stick, tutto per 19 euro. Certo. Allora, insomma, l'offerta un kit assolutamente dignitoso, infatti. Sta alle famiglie posizionarsi nella fascia di prezzo che gli consente il portafoglio. Noi vediamo spessissimo delle famiglie che soggiacciono al volere dei bimbi che sono plagiati un po' dalla moda e comprano zainetti da 30, 40, 50 euro quando la stessa qualità lo trovano in uno da 30. Infatti, guardi, le faccio un esempio io per farle capire quanta poi può essere forte la tentazione delle famiglie. Io ho un nipotino di 2 anni e mezzo che inizia la scuola materna quest'anno, è appassionato di Winnie the Pooh e ho visto un astuccio che naturalmente poteva essere proprio, come dire, la sua passione. Quando ho visto che costava 18 euro per pochi colori e poche penne dentro, sicuramente mi sono subito arresa di fronte a quello che poi, tra l'altro, 2 anni e mezzo, figuriamoci quanto poteva essere interessato anche a questa cosa. Chiaro che quando sono un pochino più grandi, un po' più difficile attivare una trattativa che possa essere comunque, che si possa concludere con successo per il genitore, però bisogna provarci, bisogna anche capire se poi i rivenditori margini magari nelle loro bellissime vetrine mettono anche ben visibile il kit di 19 euro, se mettono solamente, come dire, le cose griffate, gli zaini più belli e quelli un po' più costosi. Mi devo fermare perché devo andare subito al nostro primo break, se Margini volesse continuare a rimanere con noi a me farebbe molto piacere, e Lucia Moreschi la sento tra pochissimo, torniamo tra poco. Il ritorno a scuola, questo è il tema che sta affrontando questa mattina Salva Danaio, cercando di poter capire quali potranno essere quest'anno tutte le spese che le famiglie dovranno sostenere. Accantonato il tema libri di testo, sul quale ci siamo ampiamente soffermati anche nella puntata di lunedì scorso del Sole 24 Ore, oggi tocchiamo le altre voci di spesa: corredo scolastico, gita di istruzione, le ripetizioni, se ce ne sarà bisogno. Ho chiesto a Ugo Margini, presidente della Federazione Nazionale Cartolai, di fermarsi con noi solo un altro minuto per chiederle questo. Margini, visto che ci ha descritto com'è composto il vostro kit scuola a prezzi convenienti, con come dire, un corredo di assoluta qualità, quindi del tutto soddisfacente per famiglie e studenti interessati ad utilizzarlo, 19 euro e qualcosa, le chiedo, visto che il quadro di difficoltà finanziaria di molte famiglie si è andato piuttosto ampliando nel corso dell'ultimo anno e degli ultimi 2 anni per le difficoltà del mercato del lavoro del nostro paese, avete notato che se c'è stato un numero crescente di famiglie che utilizza il vostro kit, oppure siamo su valori stabili rispetto agli ultimi anni, perché comunque la vostra iniziativa va avanti da un bel po'? No, siamo su valori stabili. La crescita è pochissima. Notiamo però altri segnali, tipo quello che lo zaino non dura più un anno ma dura 2 o 3 anni, il compasso stanno più attenti che a non romperlo, e se lo passano da fratello a fratello, ecco. Notiamo questo genere di comportamento. Di comportamento, perché le famiglie naturalmente devono fare i conti col portafoglio. Certamente. La ringrazio per essere stato con noi, le auguro buon lavoro, perché insomma questo per l'associazione è un momento molto caldo, molto intenso. Clou, sì. Esattamente, quindi buon lavoro, dottor Margini, grazie. E vado a Lucia Moreschi, responsabile del Dipartimento Junior del Movimento Difesa del Cittadino della Lombardia. Ricordandovi che io aspetto anche le vostre testimonianze, per adesso non le stiamo prendendo perché vedo molti ascoltatori che vogliono intervenire ancora sul tema dei libri di testo. Io vorrei anche capire su tutte le altre spese come vi state comportando e come state gestendo anche le richieste dei vostri figli in questo momento. So che è un momento come dire, irripetibile. Chi inizia prima elementare, chi va in prima media, chi va in prima superiore sicuramente vorrà fare in modo che questo momento rappresenti per i propri figli un momento da fissare per sempre, però insomma è necessario farlo magari con lo zainetto o il diario all'ultima moda. Racconta un po' come state anche in maniera costruttiva gestendo questo momento con i vostri figli. Lucia Moreschi, ho toccato il tema della situazione di difficoltà per molte famiglie. So che voi avete esplorato proprio particolarmente, come dire, il momento dell'avvio del nuovo anno scolastico relativamente anche alla situazione di crescente difficoltà per molti nuclei familiari. Che cosa è emerso dal vostro monitoraggio recente? Sicuramente è emersa una situazione che non si presenta facile per le famiglie italiane in generale, e in particolare per quelle che hanno dei figli che vanno a scuola. Non so, facendo un esempio, rispetto a una spesa al di là della dote libraria, che insomma, bene o male richiede circa 300 euro all'anno di spesa per le famiglie, pensiamo anche ai kit per le scuole e a tutto il materiale didattico che occorre per l'anno scolastico, si arriva intorno a spese 450 euro. E vero che ci sono queste iniziative meritevoli da parte dei comuni, delle associazioni cartolai che propongono kit a prezzi veramente molto contenuti, ma è anche vero che purtroppo lottiamo contro anche una tendenza culturale delle famiglie, che è quella appunto di soddisfare in tutto e per tutto le richieste dei propri figli, che vogliono giustamente, per carità, lo zainetto firmato piuttosto che l'astuccio appunto che costa 36 euro. Esatto, perché purtroppo poi qualche volta in classe il confronto è impietoso e lo si vuole risparmiare ai propri figli, quindi a costo anche di sanguarsi dal punto di vista proprio economico. Sì, Moreschi. Voglio dire, è chiaro che i ragazzi, i bambini sono gli interlocutori privilegiati di chi produce, commercializza e soprattutto fa pubblicità, per cui è veramente la lotta di Davide contro Golia, e le famiglie devono intervenire per tempo insegnando ai propri figli il rispetto e il valore del denaro, che purtroppo non conoscono, per cui è chiaro che poi improvvisare questo tipo di insegnamenti a settembre, spiegare a un bambino di 5-6 anni che non si può comprare un astuccio così con un costo così esorbitante, diventa difficile, per cui da un lato è anche vero che insomma ci vuole anche, come dire, un lavoro di educazione permanente da parte delle famiglie, e forse anche, se mi permette, un minor martellamento pubblicitario verso il target dei minori. Qua lottiamo un po' come con i mulini a vento, e tra l'altro sul tema dell'educazione io adesso vorrei anche non aprire questa parentesi, perché non è attinente a Salvadanaio questa mattina, ma magari un richiamo possiamo anche farlo, perché c'è un ascoltatore che giustamente segnala a chi si lamenta dei costi dei libri di testo. Si può chiedere quanto fa spendere ai figli per i cellulari e simili. Queste non sono spese che incidono sulle spese familiari, per i cellulari nessuno si lamenta. Io condivido pienamente questo richiamo. Se fosse per me non li farei portare i cellulari a scuola, almeno sicuramente neanche nel corso della scuola secondaria, perché insomma, noi, voglio dire, io ho terminato non mica 200 anni fa la scuola superiore, e nessuno di noi è morto senza avere il cellulare dietro, insomma già alla mia epoca circolavano tranquillamente. Per cui un altro ascoltatore scrive: l'unico zaino abbastanza capiente per la mole di libri per le medie di mio figlio costava 56 euro, comprato senza che lui potesse sceglierlo, questione di spazio, esagerato, e direi che ha ragione. Volevo un attimo ritornare, poi faccio una bella chiacchierata anche finale con Nicolì, ma volevo tornare a Lucia Moreschi, perché mi ha colpito molto un dato del vostro ultimo rapporto, secondo il quale, secondo i dati della regione Lombardia, sono in questa regione aumentate del 65% in 2 anni le famiglie che hanno richiesto la dote scuola per sostegno al reddito, pari al 30% della popolazione studentesca regionale, e il contributo richiesto viene erogato in questi giorni. Cosa invece completamente diversa al sud, dove moltissime famiglie fanno richiesta di questa dote scuola, ma addirittura praticamente la maggior parte di queste non sa neanche se la propria domanda sarà ammessa e se potrà rientrare nei nuovi criteri di ammissione. Ci spiega che cos'è questa dote scuola? Magari qualche famiglia che ha bisogno non sa neanche che ha questa opportunità. Chi va fatta la domanda? Quanto ammonta poi il contributo erogato? Sì, certamente. La dote scuola, almeno per quanto riguarda la regione Lombardia, prevede un contributo alle famiglie meno abbienti che varia in relazione al tipo di scuola, non so, sono 120 euro per le scuole elementari, 220 per le medie, fino a arrivare ai 320 per le scuole superiori, e appunto c'è l'importante novità che viene erogata prima dell'inizio dell'anno scolastico, e soprattutto la possibilità da parte dei cittadini di prendere direttamente contatto tramite un numero verde con Regione Lombardia e chiedere il contributo. Naturalmente è necessario avere un reddito ISE proporzionato alla richiesta, per cui hanno diritto a ricevere questo contributo soltanto appunto le famiglie meno abbienti. Diversamente purtroppo le cose vanno nel resto d'Italia, in cui ad esempio grazie al nostro monitoraggio abbiamo scoperto che in Sicilia stanno ancora ridefinendo i criteri, quindi i redditi tramite i quali si può accedere a questo contributo relativamente all'anno scolastico 2008-2009. Vale a dire che chi ha chiesto il contributo 2 anni fa non ha ancora ricevuto nulla, e ci viene da pensare quanto tempo dovranno aspettare, infatti, i genitori per il nuovo anno scolastico. Il tema è che poi molto spesso queste opportunità ci sono, ma ci si scoraggia talmente tanto nel fare la richiesta, perché poi non si sa quando effettivamente il contributo possa essere materialmente nel portafoglio della famiglia, che si vanifica un po' tutto lo sforzo che poi il sistema fa per aiutarle, queste famiglie in difficoltà. Prima di ritornare a Nicolì, Tiziana da Padova, sentiamo qualche genitore. Tiziana, buongiorno. Buongiorno. Mamma di quanti bambini, ragazzi, figli? Sì, due bambini, sto andando a prenderli. Ah, uno bene. Di 7 e uno di 6 anni. Carini. Primo giorno di scuola. Volevo dire che non è che sia una fortuna che ci siano tutte queste robe di marca e non è che per forza li dobbiamo inculcare, che sono le cose migliori. Noi, pur benestanti, abbiamo lavorato da diversi anni su questo problema delle firme, del Pokémon, dei Dragon Ball, dei Ben 10, tutte quelle schifezze là per i maschietti. Per cui convincendoli prima che ci sono cose belle, senza che siano per forza quelle là che ti dice la TV, la pubblicità, il cartone animato, facendoli partecipare alla scelta, spiegandogli che magari un rock tech preso in giro per il mondo, uno zaino per andare in montagna può essere meglio che non l'ultimo zaino di qualche cartone animato, loro riescono a convincersi. Oggi sono andati con tutti e due a scuola con un astuccio senza, per carità, era di capa, robe di capa, ma non se ne fregavano proprio per niente. A loro bastava avere tutti i colori in ordine, le matite, cioè non hanno guardato di sicuro, certo, la marca. E così pure per lo zaino. Lo so, Tiziana, infatti abbiamo capito perfettamente che è proprio un problema di educazione, però va anche riconosciuto che molto spesso, insomma, non tutte le famiglie ci riescono ad essere così rigide, si lasciano giustamente commuovere, perché io lo ripeto, insomma, un nipotino piccolissimo, mi si spezza il cuore a non poterlo accontentare di tutto, e non chiede ancora molto perché è proprio piccino, per cui figuriamoci quando poi le trattative diventano più difficili perché crescono. Comunque, insomma, questi sono aspetti folcloristici. Allora, adesso devo andare in pausa per i suggerimenti per chi è in viaggio, ma c'è un'ascoltatrice che ci chiede, fa una bellissima domanda sulla quale poi mi soffermerò per tutta l'ultima parte di Salvadanaio con Nicolì. Sono Silvia. Cosa si può scaricare con la dichiarazione dei redditi? Non sarebbe giusto scaricare tutto, visto che la scuola è un obbligo? Questa è la grande battaglia, Silvia, dell'associazione genitori, che chiede proprio un ampliamento delle voci detraibili dal 7.30 e dalla dichiarazione dei redditi. E allora ci faremo spiegare da Nicolì cosa è possibile risparmiare dal punto di vista fiscale, cosa no e cosa si può fare anche da questo punto di vista. Allora, Gianni, Nicolì, associazione genitori, noi ci eravamo preparati proprio con lui anche un bel vademecum su tutte le voci di spesa, e quindi vorrei assolutamente raccontarlo ai nostri ascoltatori, perché ha fatto un gran lavoro lei con il mio collaboratore Marco Lombardo. Per cui partiamo proprio dal tema delle spese che possono essere detratte, quelle che si sostengono per la scuola. Che cosa possiamo portare dal commercialista l'anno prossimo per alleggerire la dichiarazione dei redditi? Esatto, adesso vedremo un elenco di voci, però prima due piccole premesse. Ho apprezzato enormemente tutto il senso della trasmissione e anche dei miei interlocutori, perché abbiamo capito che a scuola ci vanno tutti, ci vanno non solo i ragazzi ma anche i genitori, anche i commercianti, e quindi c'è un principio, abbiamo detto, di responsabilità collettiva e di educazione a passare dalla quantità alla qualità, e sostanzialmente quindi a rispettare i nostri ragazzi che crescono. Perché noi stiamo parlando di spese, ma in realtà dobbiamo parlare di investimento, l'investimento maggiore che facciamo per la loro crescita. E quindi ecco, questo come norma generale. Entrando nelle voci che non abbiamo ancora detto, prima abbiamo parlato del corredo scolastico, dei libri, per esempio dobbiamo parlare di trasporti, il costo dei trasporti, dei contributi volontari non obbligatori che comunque tutte le scuole, soprattutto superiori e alcune medie, chiedono ai genitori all'atto dell'iscrizione, che arrivano anche a 250 euro certe volte. Per c'è un tantum enorme, pazzesca. Sì, ecco, che sono giustificati, vediamo, da una norma che dice che saranno utilizzati per l'arricchimento dell'offerta formativa, per l'aggiornamento delle dotazioni strumentali, computer e attrezzature varie, e per la manutenzione degli edifici. In realtà le scuole li stanno utilizzando per pagare le supplenze, vista la carenza economica in cui quasi la totalità delle scuole italiane si trovano. Quindi ci troviamo in una situazione un po' strana, e qui i genitori appunto si chiedono: ma se io verso questi soldi e ne ottengo ricevuta, come prevede la legge, attraverso bonifico bancario o conto corrente postale, posso all'atto della dichiarazione dei redditi chiedere la detraibilità. Inoltre esistono il problema dei viaggi di istruzione, e qui potremmo entrare poi nel merito tecnicamente. Nessuno pensa al fatto che quando i genitori vanno a incontrare, a colloquio con gli insegnanti, spesso devono chiedere un giorno di ferie. Questo è un costo sociale. Noi da anni come AGE chiediamo che questi permessi parentali siano retribuiti, o comunque sia che le scuole attivino quelle forme che consentano a un genitore di impegnare una mattina, un pomeriggio, una sera, ma incontrare più docenti nei cosiddetti colloqui collettivi. Abbiamo un calcolo che va fatto sulla questione delle famiglie numerose, quindi una politica di splitting dove insomma la mensa, le faccio esempio, ho parlato oggi con una mamma di un paesino di Brescia, di Provaglio di Seo, dove viene chiesta una cosiddetta cauzione di 100 euro per l'iscrizione alla mensa di uno dei tre figlioli. Però questa cauzione praticamente non viene resa, serve a garantire che poi il figlio fruisca la mensa pagando un ticket per ogni pasto che consuma. In realtà è un contributo obbligatorio. Infatti cominciamo a cambiargli di nome, perché già non mi pare pertinente chiamarla, ecco. Così come per esempio è interessante studiare un cambio di prospettiva che ultimamente porta dalle merendine, che se sono fatte bene sono salutari anche loro, però a volte sono piene di grassi eccetera, e verso invece quei cosiddetti prodotti a chilometri zero che sono locali e che potrebbero essere ben valorizzati anche dai distributori primatici. Parlo di frutta fresca, parlo anche di frutta secca, di latte e di altri prodotti più salutari per i nostri figlioli, che costerebbero meno, valorizzerebbero i prodotti tipici del territorio e sarebbero igienicamente più validi. Nicolì, il tema invece è ripetizioni, perché chiaramente è chiaro che all'inizio dell'anno scolastico una... esatto. Infatti, no, allora, perché una famiglia almeno questa voce si augurerebbe di non doverla aprire, allora, no, leggere, invece qualche sorpresa di metà anno, cioè. Ecco, in quanto sono un vecchio insegnante con quasi 40 anni di storia scolastica, faccio presente che insomma prevenire è meglio che curare, quindi dobbiamo studiare logiche di apprendimento per evitare meno disagio, miglior apprendimento e meno dispersione. Quindi il problema delle ripetizioni è a monte, si tratta di fare una scuola di qualità che ne senta meno l'esigenza, questo come principio generale, no? Però una volta che il ragazzo è in difficoltà è chiaro che può aver bisogno di un sostegno individuale o piccolo gruppo o collettivo. L'esperienza economicamente e più efficace anche dal punto di vista dei risultati è quella che vede molte scuole italiane, per esempio penso a Mantova, dove alcuni istituti in partnership con le associazioni dei genitori, quest'estate per le cosiddette ripetizioni, sa, una volta si era rimandati, oggi non si usa più questo termine, no? Sì, c'è il credito, esatto. Il debito, comunque, anzi. Questi ragazzi che sono rimasti in sospeso per una, due, tre materie, hanno avuto nella scuola insegnanti di qualità, quindi certificati con i titoli di studio e quant'altro, a prezzi assolutamente vantaggiosi, controllati e in partnership, addirittura in collegamento con gli insegnanti titolari della materia, quindi l'insegnante d'inglese che insegnava tutto l'anno ha dato indicazioni all'insegnante che magari più giovane, appena laureato, ha somministrato le supplenze, che quindi il sostegno, le ripetizioni, e quindi questo significa anche far emergere dal nero tutte quelle forme di insegnamento che non risultano anche al fisco. Inoltre è una certificazione di qualità per quello che viene svolto. Senta Nicolì, perché la nostra trasmissione sta volando, io credo di essere riuscita a farle dire tutto. L'unica cosa, siccome credo che l'apporto della vostra associazione sul territorio sia di un estremamente qualificante ed importante per sostenere le famiglie che davvero a volte su questi temi brancolano nel buio e affrontano così proprio in maniera giorno per giorno, no, le problematiche che si presentano, vabbè, dice adesso penseremo intanto a comprare i libri di testo, poi penseremo al viaggio di istruzione, penseremo dopo la mensa e alle ripetizioni, ma voi siete ben strutturati su tutto il territorio? Se noi ci ascoltassero, allora, ovunque. Sì, esistiamo da 41 anni, siamo riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione, siamo in partnership in un organismo che si chiama FONAGS, siamo diffusi in tutta Italia con 200 associazioni, è possibile ritrovarci su www.age.it e chi volesse anche colloquiare con me può fare scuola@age.it. Insomma, più ne siete più potete organizzarvi, fare dei grandi gruppi di acquisto e quindi alleggerire questo mese, perché il ritorno dalle vacanze insomma è veramente terribile. L'unione fa la forza, insomma. Esattamente. Allora, due minuti di tempo, io sentirei, se ce la fanno in maniera telegrafica, poi un saluto finale a Lucia Moreschi, sentirei ancora due genitori. Gianni dalla provincia di Milano, rapidissimo, la ringrazio. Però niente, a proposito dei libri di testo, volevo dire soltanto che io su due figli che ho mandato, uno quest'anno comincia la prima superiore, l'altro comincia l'università, ho tutti i libri che vanno dalle medie alle superiori per uno e per l'altro invenduti, perché non si riescono a piazzare da nessuna parte. Gianni, infatti. Alessandro da Roma, grazie, buon avvio anno scolastico e universitario comunque per i suoi figli. Alessandro, il suo contributo di oggi qual è? Sì, anche per noi. Molto veloce, buongiorno. Buongiorno. Volevo segnalare, come mia figlia fa la quarta elementare, come spesso sono gli stessi insegnanti, i maestri, le maestre, che richiedono dei prodotti che io definirei assolutamente capricciosi rispetto poi all'utilizzo e che portano a una lievitazione dei costi, diciamo, inutile. Un quaderno ti viene richiesto, poi non lo voglio grande, poi con i margini, e ogni volta si deve acquistare per poi renderlo uguale, quindi non si tratta più di capricci dei bambini, ma si tratta a volte di capricci di insegnanti. Infatti, Alessandro, cosa le devo dire? Come Nicolì diceva, qualche volta proprio dobbiamo focalizzare la nostra attenzione sul tema del principio di responsabilità che dovrebbe coinvolgerci e interessare tutti. Lucia Moreschi, concludo con lei, se avesse ancora qualche istruzione per l'uso in più per le famiglie che si accingono appunto a ricominciare questo anno scolastico da oggi. Probabilmente molte spese sono già state fatte, ma magari qualche ultimo suggerimento ce l'ha per noi? Ma sicuramente, almeno per quanto riguarda l'acquisto di libri, il ricorso al mercato dell'usato, e tra l'altro volevo anche menzionare che in alcune scuole secondarie viene organizzato dalle scuole stesse il mercatino dell'usato, quindi è un'altra buona pratica. Esatto, informarsi prima, partire per tempo. Grazie, grazie a tutti per essere stati con noi. Salvadanaio torna domani, parleremo peraltro di una cosa che non vi ho detto oggi in edicola con il Sole 24 Ore, la guida investire in ETF senza sorprese sarà il tema che affronteremo domani a Salvadanaio. Buona giornata. We'll be right back.